I wanna wish you a happy birthday. I wanna help you celebrate. I wanna wish you lots of presents. Buongiorno, buongiorno, 72esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Domenica 10 marzo 2013, la prima puntata del secondo anno in onda. Abbiamo infatti appena compiuto un anno, festeggiato domenica scorsa con una ricca diretta dagli studi di Controradio. E siccome qualcuno di voi potrebbe esserselo perso, vi rimandiamo in onda il jingle del nostro primo compleanno, detto anche il tormentone di Restiamo Animali. Restiamo Animali! Aspetta, ridiciamolo. 1, 2, 3. Restiamo animali! Enzo Maiorca, Restiamo Animali? Decisamente sì, Restiamo Animali. Jill Robinson, Restiamo Animali? Restiamo Animali, Remain Animals. Onorevole Andrea Zanoni, Restiamo Animali? Restiamo Animali. Io mi chiamo Simone Salvini, Restiamo Animali. Sindaco Gonzales, Restiamo Animali? Certo, Restiamo Animali. Sonny Ricchichi, Restiamo Animali? Sì, Restiamo Animali. Davide Battistini, Restiamo Animali? Restiamo Animali, Restiamo Animali. Professore Sack, Restiamo Animali? Certo, Restiamo Animali, siamo animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. E speriamo che il tormentone ci porti fortuna, ma soprattutto speriamo che porti fortuna ai nostri amici e fratelli animali. Oggi parleremo di ratti, visti da molto vicino, e Zenone Sovilla ci racconterà da Trento una storia molto triste e preoccupante, la tragica fine dell'orso M13 nella vicina Svizzera. Avremo poi una versione particolarmente animata di Perle agli umani con Elisa Moretti, che ci propone una lettura molto molto particolare di un libro di Isabella Allende. Il resto lo scoprirete da soli. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Valentina Reggioli e Lorenzo Guadagnucci. Visti da vicino, non mangio mai qualcuno che conosco. Sono al telefono con Francesca De Matteis di Roma. Ho conosciuto Francesca via mail durante il digiuna staffetta di Davide Battistini. Francesca si è proposta, si è offerta come digiunante. Ciao Francesca. Ciao Camilla, ciao a tutti. Ma in questo specifico caso parliamo del rapporto che Francesca ha con tre animali un po' anomali rispetto agli animali da compagnia a cui siamo abituati e con i quali invece Francesca ha un forte rapporto. Stiamo parlando delle sue tre rattone, Punky, Mill e Jennis. Esattamente. Per arrivare allora questa tua scelta anomala, dacci qualche elemento su di te. Mi occupo di formazione e comunicazione all'interno di un'associazione ambientalista. Tutto è nato da quando ho preso il cane tanti anni fa tramite il canile, si chiama Kiko, adesso purtroppo non c'è più. Diciamo che grazie a lui ho fatto il collegamento con gli animali che io dicevo tanto di amare, in effetti amavo il mio cane, non tutti gli animali. Ho cominciato a informarmi su internet, ho visto alcuni filmati, poi ho conosciuto alcune associazioni locali che si occupavano di animali, sono diventata vegetariana, poi col tempo neanche troppo sono diventata vegana. Da lì ho cominciato a essere un antispecista. Non riesco a vivere senza animali. Vivendo con dei coinquilini ho detto non posso, non sono in condizione di poterlo prendere. Ho proposto alla mia compagna di stanza, visto che tutti e due volevamo un animale, di prendere dei ratti, perché proprio in quei giorni in cui discutevamo ho visto su internet che dei ratti cercavano casa in seguito a una liberazione da parte di un'organizzazione che si occupa di riscattare gli animali dai laboratori. Ho trovato da parte sua un'apertura mentale che in realtà non mi sarei mai aspettata e quindi abbiamo iniziato insieme questa avventura prendendo queste tre rattine. Tre perché suggeriscono gli adottanti che è sempre meglio

come stia faticando questo progetto europeo di reintroduzione di questi mammiferi nell'arco alpino, che si chiama Life Ursus, coordinato dal Ministero Italiano per l'Ambiente e gestito dalla provincia autonoma di Trento con il suo ufficio che si interfaccia con il parco naturale Adamello Brenta, sempre a dimensione provinciale in Trentino. L'area interessata è quella delle Dolomiti di Brenta, quindi un'area montuosa dove è stato avviato questo ripopolamento con orsi che sono stati prelevati, erano stati prelevati in Slovenia a suo tempo, una dozzina di anni or sono. Via via lì gli orsi si sono effettivamente ripopolati, qualcuno è iniziato a migrare, qualcuno migra verso est, verso la provincia di Belluno, le Dolomiti bellunesi, e c'è già qualche caso anche di contatto con il nucleo originario sloveno, e in questo contesto tutto va abbastanza bene, non ci sono particolari situazioni di allarme o di contestazione. Ci sono invece nell'epicentro di questo progetto, quindi le Dolomiti di Brenta in Trentino, dove la popolazione, sulla scia di una serie di razzie compiute dagli orsi che hanno ucciso pecore o asini o hanno fatto razzia di alveari, sulla scia di qualche incontro ravvicinato del terzo tipo che è stato poi rilanciato in modo magari allarmistico dalla stampa, è cresciuta un po' un'onda popolare in queste vallate, limitatamente a queste vallate che sono l'epicentro del progetto, un po' diciamo di contrarietà, al punto che anche l'atteggiamento dell'ente pubblico della provincia autonoma di Trento è andato via via modificandosi fino a un atteggiamento poco diciamo favorevole a questo progetto, che è stato via via manifestato nei fatti se non nelle parole ultimamente dalla provincia di Trento. Di questi orsi che migrano, uno fra gli altri si era sistemato in Svizzera, il giovane M13, si era sistemato in Val Poschiavo, siamo nel cantone dei Grigioni, al confine con l'Italia, con la Lombardia, siamo a poche centinaia di metri dal confine, dove M13 aveva la sua tana, anche lui ogni tanto, il giovane orso maschio, faceva qualche razzia l'estate scorsa, creando allarmi in una popolazione di questa Val Poschiavo non abituata certo alla presenza degli orsi e non formata, non informata, non educata dalle autorità a questo tipo di novità. Poi in autunno, proprio mentre cresceva una certa mobilitazione popolare, favorita anche da chi, fornendo anche informazioni fuorvianti sulla pericolosità degli orsi, cercava di fare pressioni sulle autorità affinché agissero contro la presenza di questo orsetto trentino, dicevo, quest'autunno c'è stato un episodio di notte, pare che l'orso sia entrato nel deposito di ortaggi, di verdure, che si trova accanto a un rustico di montagna a quota 1700 metri sul livello del mare, un rustico rurale quindi dove i proprietari si recano solo ogni tanto. Questo passaggio notturno dell'orso è diventato addirittura l'incursione dentro un'abitazione nella versione fornita ai mass media. Apriti cielo, da qui è stato tutto un inseguirsi di appelli, allarmi affinché questo orso fosse sostanzialmente abbattuto, cosa che poi è avvenuta. L'orsetto M13 è entrato in letargo, una volta uscito dal letargo pochi giorni fa lo aspettavano proprio al varco e è stato ucciso dalle autorità svizzere, che lo avevano condannato a morte nonostante non ci fosse assolutamente nulla che lo potesse far classificare come orso pericoloso. Si trattava semplicemente di una rivolta di una parte della popolazione impaurita e, ripeto, poco informata dalle autorità, che ha indotto la classe politica, a cui alla fine spetta la decisione in Svizzera, a sancire questa fine del povero orso M13. E quindi la situazione ora è questa, che l'episodio triste e tragico di M13 apre un grosso punto interrogativo sul senso di un progetto di ripopolamento sulle Alpi dell'orso, dato che non c'è nessun segno nel comportamento delle autorità né in Trentino né a livello nazionale né tantomeno oltre il confine italiano che indichi che c'è una volontà di coordinarsi, di decidere cosa fare, innanzitutto per rapportarsi con le popolazioni dove l'orso potrebbe accasarsi e informarle, formarle in modo che siano in grado di convivere con questa novità. Questo è un po' il quadro. Va anche precisato che nel caso dell'abbattimento di M13 le autorità svizzere avevano detto che prima di procedere con l'esecuzione della condanna a morte che avevano stabilito, avevano anche contattato la provincia autonoma di Trento, i suoi uffici competenti, per chiedere se avrebbero preferito prelevare l'orso e riportarlo sulle Dolomiti di Brenta e vedere se per caso sarebbe rimasto in zona anziché tornare di nuovo in Svizzera, ma questo contatto non è andato a buon fine. Secondo la versione svizzera, la provincia di Trento avrebbe risposto che non se ne parla, non avrebbe senso, e avrebbe invece dato il via libera a sua volta con un parere favorevole all'abbattimento. Questo dice il Ministero svizzero per l'ambiente, replica la provincia di Trento che in realtà nessuno li ha mai contattati ufficialmente. Qualcuno dei due non la sta raccontando giusta, fatto sta che il progetto di ripopolamento dell'orso Life Ursus sembra veramente in questo momento in difficoltà e servirebbe sicuramente un piano per rilanciarlo, cominciando ovviamente dalla alfabetizzazione delle popolazioni che devono convivere con questo progetto. Dalla Svezia arriva un'interessante notizia che potrebbe aprire nuove prospettive politiche. Il Consiglio svedese per l'agricoltura ha proposto alla Commissione Agricoltura dell'Unione Europea di introdurre una tassa europea sulla carne in modo da ridurne il consumo. La motivazione è prettamente ambientalista e si richiama a conoscenze ormai consolidate sull'enorme impatto ambientale della filiera della carne, dannosa sia per le emissioni gassose degli allevamenti, sia per lo sfruttamento dei suoli, sia per la difficoltà di smaltimento di masse enormi di liquami. Gli esperti svedesi sostengono che occorre disincentivare i consumi di carne e favorire la produzione di vegetali destinati all'alimentazione umana. Il Consiglio svedese sostiene che bisogna informare adeguatamente l'opinione pubblica sulla necessità di abbattere i consumi di carne e ritiene che una tassa europea possa essere un efficace disincentivo. Certo, siamo ancora lontani da una prospettiva cruelty free e antispecista, ma il fatto che istituzioni pubbliche cominciano a ragionare di questi temi fa pensare che il pensiero unico carnista cominci a vacillare. Siamo con Adriano Fragano, uno degli attivisti di Campagne per gli Animali, che è l'organizzazione che ha lanciato da tempo campagne che potremmo definire di antipubblicità sulla questione animale. In questo ambito c'è stata anche l'affissione a Grosseto e in altre città di questo manifesto che ha creato scandalo nei giorni scorsi. Si è arrivati addirittura delle denunce per l'uso definito strumentale dell'immagine dell'infanzia. Ad Adriano chiediamo intanto di spiegarci il senso delle campagne di antipubblicità, visto che sono reiterate nel tempo e con diversi tipi di comunicazione. Il progetto di Campagne per gli Animali è quello di creare delle contropubblicità, di controinformazione, o forse si potrebbe anche definire una sorta di pubblicità progresso per non umani. L'idea è nata proprio vedendo le pubblicità progresso che qui in Italia si fanno sia sui giornali sia sulle reti pubbliche e private, che riguardano temi a sfondo sociale. Noi ci siamo sempre posti il problema di comunicare alle persone, al cosiddetto uomo della strada, quali sono le reali condizioni degli animali non umani che vengono sfruttati dalla società umana. E questo progetto ha sfornato, per così dire, già una serie considerevole di pubblicità che sono state pubblicate in giornali a tiratura nazionale. Adesso c'è questa nuova fase dei mega cartelloni, che sono cartelloni di 6 metri per 3 che vengono affissi, sono stati già affissi a Pordenone, a Torino e adesso a Grosseto. Ecco Adriano, tu di professione sei un comunicatore, quindi conosci bene la materia. Una delle obiezioni che è stata fatta all'ultima affissione è quella di non comunicare, di proporre un'immagine così scioccante che in qualche modo viene rifiutata e quindi non si avvia quel ragionamento che è invece il vostro obiettivo. Come rispondi a questa obiezione? Io rispondo semplicemente che la nostra, sotto un certo punto di vista, è una provocazione, ma soprattutto è una denuncia dell'incoerenza, ossia queste polemiche incredibili che sono nate dalla pubblicazione di questo manifesto, che a noi fanno piacere perché vuol dire che scuotono le coscienze, sono nate semplicemente per l'affissione di un manifesto che riportava la fotografia di un bambolotto pezzettato e incellofanato. Quindi in realtà non si tratta di un'immagine che riporta delle immagini crudele, cruente, oscene o quant'altro, ma è semplicemente un simulacro, un qualcosa che non esiste, che rappresenta un'effigie umana. È bastato semplicemente questo per scatenare delle polemiche su tutti i giornali. Mentre noi vediamo quotidianamente, non so, al supermercato, in edicola, nei giornali, nelle pubblicità televisive e quant'altro, una serie infinita di spot pubblicitari e immagini violente e crudeli che ritraggono pezzi di animale vero, vero, quindi non simulacri, e nessuno si pone il problema, nessuno si scandalizza e nessuno crea delle polemiche oppure reagisce in modo negativo come è accaduto per questa pubblicità. La pubblicità che cerca di comunicare un sentimento di tenerezza, di compassione nei confronti degli animali, è una pubblicità che viene molto spesso recepita positivamente da chi è già compassionevole e da chi ha già un rapporto diretto con gli animali e li rispetta. Mentre la gente comune, cioè chi è lontano da queste tematiche, non viene percepito come una pubblicità che possa interessare, anche perché noi siamo talmente abituati a visioni violente di sopraffazione, di morte, distruzione, eccetera, basta vedere un telegiornale o qualsiasi altra cosa, che una cosa del genere non ci fa effetto, e poi l'animale non umano è molto distante da noi dal punto di vista delle nostre sfere affettive, a meno che non si tratti del nostro cane, del nostro gatto, e basta. Invece, prendendo come elemento di discussione uno dei totem della nostra società, che sono ad esempio i minori, che possono essere rispetto di chi è più debole, eccetera, però sempre all'interno della società umana, e paragonandolo poi a una problematica tipica della questione animale, allora si scatenano delle polemiche, e quindi queste polemiche possono fare sollevare dei dubbi e delle riflessioni, possono essere sia positive che negative, però in questo modo la gente ne parla. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Onda nel ciel di maggio, come un formaggio d'Olanda. Monda la luna in viaggio, e di suo raggio ci manda. Questo paesaggio, ciao! Oggi vi propongo un piatto semplice ed economico, il purè di patate e cavolfiore. Per esperienza ho osservato che piace sempre a tutti, quindi proponetelo senza timore anche ad ospiti scettici e dai palati un po' esigenti. Gli ingredienti per tre persone sono due patate medie, un cavolfiore piccolo, uno spicchio d'aglio, un cucchiaino di curry, latte di soia, sale, pepe nero e olio extravergine d'oliva. Iniziate lavando bene le verdure. Tagliate le patate a tocchetti e il cavolfiore a pezzetti. Cuocetele insieme a vapore. E per i tempi controllate voi la cottura. Io ho impiegato circa 7 minuti. Le verdure dovranno essere belle morbide. Mettetele ora in una ciotola. Aggiungete lo spicchio d'aglio tritato, il sale, un'abbondante spruzzata di pepe nero, il curry e qualche cucchiaio di latte di soia. Frullate velocemente con il frullatore di immersione, sino ad ottenere una crema omogenea. Se vi sembrasse molto molto soda, aggiungete altro latte. Mettete ora il composto a cuocere su fuoco dolce per qualche minuto tenendo mescolato finché non diventa bello caldo e fumante. Terminate con un giro generoso d'olio extravergine d'oliva e servite subito. A piacere potete aggiungere anche un cucchiaio di rosmarino tritato finemente. Ciao, alla prossima! parle agli umani, letteratura per la liberazione. Ho riletto recentemente L'isola sotto il mare di Isabella Allende. Il libro tratta l'argomento della schiavitù dei neri nelle colonie francesi e americane a fine Settecento. Non mi interessa parlare qui della trama, che pure è molto coinvolgente, né dei singoli personaggi. Mi interessa piuttosto raccontare qui la mia lettura, tutta particolare, della storia, che va persino oltre le reali intenzioni dell'autrice. Mi sono resa conto, leggendo il libro, che in molte pagine, sostituendo la parola «schiavo» con animale e piantagione con allevamento, il discorso fila lo stesso. Una prova? Ecco qui. Su un tavolato erano sposti in vendita 4 schiavi adulti e un bambino nudo, di circa 2 o 3 anni. Gli interessati esaminavano loro i denti per calcolare l'età, il bianco degli occhi per verificare la loro salute e l'ano per assicurarsi che non fosse toppato con stoppa, il trucco più frequente per nascondere la diarrea. Una signora anziana, con un ombrello di pizzo, stava soppesando con la mano guantata i genitali di uno degli uomini. L'unica donna del lotto stringeva il bambino contro il suo corpo e implorava a una coppia di compratori di non separarli. Suo figlio era sveglio e obbediente, diceva, mentre Pierre Lafitte la descriveva come una buona riproduttrice. Aveva avuto diversi figli ed era ancora fertile. Nel romanzo si propone anche la diatriba tra gli abolizionisti e chi invece pensa che gli schiavi si debbano trattare meglio, ma debbano comunque essere schiavi. A me ha ricordato l'annosa questione tra chi, animalista, vuole gabbie più grandi e confortevoli e chi invece vuole abolire il concetto stesso di sfruttamento degli animali. I neri hanno bisogno del pugno di ferro, e sia chiaro che mi riferisco alla fermezza, non alla brutalità. Non esistono mezzi termini. Una volta accettato il concetto stesso di schiavitù, il trattamento non ha molta importanza, ribatté il medico. Non sono d'accordo. La schiavitù è un male necessario, l'unico sistema per dirigere una piantagione, che si può tuttavia praticare in modo umano. Non può essere umano possedere e sfruttare un'altra persona, replicò Parmentier. Non hai mai avuto uno schiavo, dottore? No, e non lo avrò neanche in futuro. Mi congratulo. Lei ha la fortuna di non essere un piantatore, disse Valmorin. Non mi piace la schiavitù, glielo assicuro, e ancor di meno mi piace vivere qui, ma qualcuno deve pure amministrare le colonie perché possa addolcire il suo caffè e fumare una sigaretta. In Francia fanno uso dei nostri prodotti, ma nessuno vuole sapere come si ottengono. La violenza fisica e psicologica sugli schiavi è giustificata dal fatto che i neri hanno una soglia del dolore più alta dei bianchi. Tété scoppiò a piangere, ne rimase sorpreso, perché non l'aveva più vista versare una lacrima da quando le aveva tolto il suo primo figlio. Aveva sentito dire che i neri soffrono meno, e prova ne era che nessun bianco avrebbe retto quello che loro sopportavano. E così come si tolgono i cuccioli alle cagne o ai vitelli alle vacche, si potevano separare le schiave dai loro figli. Dopo poco tempo si riprendevano dalla perdita, e in seguito nemmeno se ne ricordavano. Inoltre la schiavitù, così come lo sfruttamento degli animali, non può essere abolita perché, come sostiene uno dei protagonisti del libro, l'economia mondiale poggia su di essa. Come per gli animali, non tutti gli schiavi sono uguali. Come oggi la maggior parte degli europei si scandalizza di chi mangia i cani o ne fa pelliccia, magari proprio mentre sta mangiando un maiale con indosso scarpe di pelle, così certi schiavi sono cose e altri quasi membri della famiglia. Di solito non prestava attenzione agli schiavi, a eccezione di Lula. Li considerava merce, ma quella creatura le suscitava simpatia. Insomma, l'idea di molti dei personaggi bianchi e mulatti dell'isola sotto il mare di Isabella Allende è ben riassunta in questo dialogo. Non penserà che i neri siano come noi, vero? Dal punto di vista biologico è evidente che lo sono. Si vede che lei ha molto poco a che fare con loro. I neri hanno la costituzione adatta per i lavori pesanti, sentono meno il dolore e la fatica, il loro cervello è limitato, non sanno discernere, sono violenti, disordinati, pigri, sono privi di ambizione e di sentimenti nobili. Ma sì, abbiamo capito. Per fortuna ora la schiavitù non c'è più e i neri non vengono trattati come animali perché abbiamo capito che siamo tutti uguali. No, non era questo quello che volevo dire. L'Allende sì, voleva dire questo. Io mi spingo un po' più in là e dico che non solo i neri e i bianchi sono uguali, ma umani, mucche, cani e galline sono uguali. Ma cosa stai dicendo? Non penserai che una mucca sia come noi? L'uomo è intellettualmente superiore. Vero, questo non lo nego. Una mucca non filosofeggia e non sa risolvere equazioni di secondo grado. Ma anche Nina, il mio cane, non è capace. Eppure Nina in Italia è tutelata da una legge che mi punisce se la maltratto. Mentre una mucca, come tutte le mucche, tranne pochissime fortunate, viene messa incinta forzatamente, le viene allontanato il figlio, le viene munto il latte e quando non ce la fa più viene uccisa. E diventa dado da brodo o scatoletta per gatti. La sua vita può essere un po' migliore o un po' peggiore se parliamo di un allevamento biologico piuttosto che intensivo, ma la sua sorte non cambia. Non hai risposto. D'accordo, un cane e una mucca sono pur sempre animali, ma noi e la mucca non siamo uguali. Cosa intendi per uguali? Come due gocce d'acqua? Come due gemelli? Allora no, non siamo uguali. Ma anche io e mio marito non siamo uguali. Chi allatta nostro figlio? Chi dei due apre i barattoli chiusi ermeticamente? Anche io e un nero non siamo uguali. La mia pelle dopo mezz'ora al sole si ustiona. Però siamo ugualmente portatori di diritti. Sì, e diamo il diritto di voto ai polli. Non sto dicendo che dovremmo dare il diritto di voto agli animali, anche perché non saprebbero cosa farsene. Come d'altra parte un bambino non ha il diritto di votare. Sto parlando di diritti che ognuno ha fin dal momento della nascita, come il diritto alla vita. Dal dizionario Treccani, diritti naturali, diritti dei quali ogni individuo è titolare fin dalla nascita, che trovano la loro legittimazione non nel fatto di essere riconosciuti e accettati da un governo che li concede, ma nel fatto di essere costitutivi della natura stessa dell'uomo. Per esempio, il diritto alla vita, alla libertà personale. Stai dicendo che non dovremmo più mangiare carne e bere latte? Ma sei sempre fatto così. Arrivi tu e vuoi stravolgere le consuetudini. Vero, ma anche la schiavitù, prima che venisse abolita, esisteva da sempre, come ben racconta il libro dell'Allende. Oggi purtroppo esistono ancora forme di schiavitù, però giuridicamente è stata abolita e viene condannata anche da chi invece non si interroga sulla sorte di tanti animali tuttora tenuti schiavi. And you'll take to the sky. Per oggi abbiamo finito e vi ricordiamo di visitare il nostro blog restiamoanimali.wordpress.com, dove troverete approfondimenti, immagini, la documentazione relativa ai servizi che abbiamo mandato in onda. Per scriverci restiamoanimali@gmail.com. Ci risentiamo giovedì mattina per la puntata breve, la pillola, intorno alle 9:50 e domenica prossima, 17 marzo, per il consueto appuntamento settimanale con la mezz'ora di Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali.